Non è esattamente teatro, lo faremo noi in diretta radiofonica al Breakfast Club Radio Città Fujiko quando sono le 8:03 minuti. Arrivano due amici che ogni anno ospitiamo all'interno di questa rubrica perché è omnicomprensiva tra cinema, teatro, iniziative culturali, iniziative di aggregazione. L'occasione ottima per dare il buongiorno, ben ritrovati a Diego Schiavo e Marco Melluso. Ciao a tutti. Buongiorno, traffelati, un pochettino in ritardo. Anch'io oggi, casualmente, guarda, oggi è la giornata che arriva un minutino dopo. Ma è che è sempre bello farsi un po' aspettare, un po' desiderare. Dici, ma se non sanno che arrivi, cosa ti desiderano? Sì, vabbè, però bisogna darsi un tono. Si nota di più se ci sono o se non ci sono. Ma soprattutto se sanno che arrivo o se nessuno sa di me. Ma soprattutto riesco a sormontare le macchine che immagino che l'orario. Mamma mia, l'orario è terribile. Ci crede, per quello che mi alzo sempre alle 4 e guarda un po', ma non c'è mai nessuno, va bene così. E intanto il piacere di essere super mattiniero coinvolge anche le ascoltatrici e gli ascoltatori del Breakfast Club. Marco Melluso, Diego Schiavo, conosciuti come editori, registi, motivo d'aggregazione per il cinema, per il teatro, incontri culturali, sì, ok, diamo una proposta per percorsi storici alternativi, ma quanto mai importanti protagonisti e monografie ne abbiamo già conosciuti. Questa volta invece sarà il momento di una protagonista che nel cuor mi sta. Sapete che io amo di più la cugina Angela. Sei di quelli scandalosi che fanno, che combinano i pasticci e poi finiscono male. Ti malissimo. Ricordo che Don Giulio per questa storia è finito 54 anni in carcere. E ti ricordo anche che gli scagnozzi di Ippolito hanno cavato gli occhi, esatto, purtroppo, a questo suo spasimante che non ha resistito alla bellissima cugina di Lucrezia Borgia. Lucrezia Borgia. La troveremo in una monografia. Adesso io non ho esattamente, sto andando a braccio perché, come ben sapete, ha vissuto diversi anni nella delizia estense del bel riguardo. A cui tu sei molto legato, molto. Ci dicevi la puntata ultima in cui ci siamo sentiti. E allora, che avete combinato a proposito di Lucrezia? Ma stavolta, cioè, è stata veramente amore a prima vista. No, amore a prima svista proprio, nel senso che ci successe di chiacchierare proprio con un'esperta di Lucrezia Borgia e scoprire che tutto quello che si diceva era falso. Lucrezia Borgia, una delle donne più famose della storia, una di quelle che quando dice Lucrezia Borgia tutti fanno così, col capino, sì. E anche un po' alzando gli occhi al cielo, sono, benedetta ragazza la Lucrezia, ne ha fatte lei. Più di recarlo in Francia. E invece, cioè, lussuriosa, veleno. L'altro giorno abbiamo fatto un'intervista al cinema, abbiamo chiesto qual è la prima cosa che viene in mente pensando a Lucrezia Borgia: veleno. A me è bel riguardo. Perché sei avanti, perché sei una persona informata sui fatti e avanti. E invece no, veleno, morti, ammazzati, ed era vero? No, non era vero niente. E gli studi su Lucrezia Borgia ormai da anni si battono per la riabilitazione di questa splendida donna che noi abbiamo definito incantevole, perché veramente ti incanta quando ne conosci la storia. Una grande imprenditrice, una fine diplomatica, ha saputo risollevare le sorti del ducato da sola dopo la guerra contro Venezia, quando il marito era a giocare coi cannoni e lei si doveva occupare di tutto il popolo e dello Stato, e faceva delle cose pazzesche, delle cose incredibili. Lo sai che nel 1508 il primo Monte dei Pegni europeo è stato creato da Alfonso e da Lucrezia? E Lucrezia che ci faceva? No, ma allora, praticamente la cosa che a me ha sconvolto è che nelle lettere questa si interroga e dice: ma no, sarà meglio Vuitton o Chanel? No! Non era un amante del lusso come tutti si immaginano, cioè sei figlia del Papa. E quindi? L'unica figlia del Papa passata alla storia, perché ce ne erano state altre, ma non si sapeva che erano figli del Papa. Invece lei passa alla storia proprio come la figlia del Papa e si interrogava sul perché io devo essere ricca e gli altri poveri. Cioè, non ha alcun senso essere ricchi se non è un merito, ma solo un caso. E di sangue blu non basta. Esatto. Per cui lei diceva: vabbè, allora vuol dire che quello che ho io in realtà non è mio, è del popolo. Per cui cerca la maniera di escogitare la maniera in cui possa trasformare i suoi gioielli, le sue ricchezze in qualcosa di liquido da poter poi dare alle persone, per cui inventa il mago dei pegni. Eh sì, è una modalità tra l'altro che poi è diventata motivo di aiuto, se vogliamo, almeno all'epoca, per la popolazione non solo estense, che di certo, visto il grande lusso degli este, non aveva grandi motivi per spassarsela, loro grandi mecenati per l'arte, e per quanto riguarda la popolazione erano un pochettino di manica corta. Ecco, con Lucrezia qualcosa cambia, con l'arrivo di Lucrezia qualcosa cambia. A parte che il papà, lo raccontiamo nella storia, il papà di Alfonso comunque era stato di braccino corto anche con Lucrezia, non le dava la paghetta, ecco. E quindi lei sa cosa vuol dire. Esatto, sapeva dire, sapeva che chi si trovava lì, e se, perché era un T-Rex praticamente, un T-Rex. Cioè non arrivava alla l'unghino sotto la scella, esatto, per cui cioè, aveva ste manine corte e non riusciva a prendere i soldi dalla pochette, per cui insomma un casino, e Lucrezia su sta roba proprio non ci va giù di testa, cioè il marito che si organizza le battute di caccia, i festoni, roba, sì, i grandi artisti, lui sì. Chiama il meglio dell'arte in quel sì, momento, cioè ci sono almeno una decina di musei internazionali con la sala Ferrara, perché con quello che hanno tolto, perché dobbiamo immaginarci che non c'aveva neanche la quadriera, proprio non c'avevano i muri, sì. Era tutta un'opera d'arte. Adesso vedere il castello estense è comunque è meraviglioso, però è molto essenziale, certo. Devi immaginartelo pieno di quadri, di stucchi, di meraviglie, cioè veramente, per cui cioè, con le robe, con le meraviglie d'arte estense ci hanno fatto i musei. Lucrezia secondo me un pochino aveva un'altra idea. Proprio. Un'altra idea, certo, anche perché Alfonso I, in seguito lui, il padre di Alfonso I, grande ammiratore dell'arte della vicina Mantova, è anche molto invidioso. Diceva: no, io voglio lo stesso architetto che ha fatto il castello di Mantova, e spende ogni ben di Dio per poter fare questo capolavoro nel centro di Ferrara. Beh, questo come ottiene tutto ciò? Soggiogando di tasse la popolazione, ridotta veramente, tanto più che il fossato intorno era perché qualcuno ogni tanto andava giù di testa e diceva: adesso andiamo là e lo meniamo, perché non è che ci può rovinare di tasse. E allo stesso modo pensate che mandava avanti un gabelliere. Beh, il gabelliere l'hanno preso e l'hanno fatto a pezzi, hai capito? Cioè, quindi questo infatti, è... E infatti per quello inventano la via coperta, no? Certo. Sì, per poter passare dagli appartamenti al castello senza dover incontrare questa plebe. Baglia. E comunque noi arrabbiata. E comunque noi questa invidia la sottolineiamo anche da parte di Isabella, la sì. Sorella appunto di Alfonso, che a Mantova è andata a fare la bella vita, la marchesa in realtà, mentre Lucrezia arriva come duchessa a Ferrara, certo. E questa cosa non le va giù. In più quella lì che cosa vuole? La figlia del papa, ma solo lei, si parla solo di lei, dicono pure che è bella, fammela vedere, anzi fammi scrivere e fammi chiedere pettegolezzi eccetera, così quando arriva la mettiamo un po' sotto strozzo. Hai capito? Però scusate, prima di ripartire direi che siamo stati, cioè bello, abbiamo detto che c'è Lucrezia, abbiamo detto che parliamo di Lucrezia, che figura è Lucrezia, ma non abbiamo detto niente che allora innanzitutto che è un film, ok, e questo è un film, è una media, ma anzi è un docu-pop. Abbiamo deciso di ribattezzarlo docu-pop. Ma sapete che questo termine, nonostante io non sia amante di questi neologismi, si addice perfettamente alla vostra linea. È che appunto tutti quelli che arrivano al cinema dicono: non mi aspettavo sta cosa qua, perché è un genere che non esiste, per cui dobbiamo dargli un nome che non esiste, per cui dobbiamo trovarlo. Quello prima era docu-media, non ci piaceva, docu-pop ci piace più. Bello docu-pop, allora, anche perché è omnicomprensivo tra musica, spettacolo, aggregazione, cultura, sì, è una bellissima idea. Se ci fosse un derby, Matilde Lucrezia. Guarda, allora abbiamo una risposta, poi ritorniamo su che cos'è. Allora abbiamo una risposta ed è che sono due donne grandiose. Allora io devo dire il cuore pende per Lucrezia. Anche il mio, scusa, sì. Anche il mio. Però sono due donne grandiose che fanno un gesto che riportato all'oggi è estremamente interessante nella sua diversità, per mostrare due caratteri totalmente diversi. Matilde è una donna di politica innanzitutto. Sì. È spregiudicata, non ha paura di niente, non... Parte da una posizione diversa. Sì. È una feudataria e come tale ha già tutti i suoi diritti, eccetera, eccetera. La Borgia era di una famiglia che era appena arrivata, in fondo, certo, sul suolo italico. E Matilde sente da subito il bisogno di veicolare l'opinione pubblica e di raccontarsi, tant'è che l'Instant Book, con la sua biografia, dove praticamente viene beatificata, santificata, tutta lei, tutta brava, tutta di una famiglia meravigliosa che non ha mai sbagliato niente, che sì, tutto bello, e esce praticamente alla morte, perché lei la commissiona già in vita, lei chiede già questa cosa in vita, per cui questa cosa esce su... Matilde è artefice della sua narrazione. Di Lucrezia tutti parlano e lei non controlla questa, non controlla la narrazione di sé, lascia che gli altri parlino. La sua reazione tendenzialmente, anche quando le dicono qualcosa di brutto, è ridere, per cui è una persona estremamente solare, eccetera, molto, secondo me, forte d'animo, ma che lascia correre sulle malelingue, maldicenze, tant'è che a noi di lei rimangono solo quelle, cioè le maldicenze. È vero, bella questa osservazione, che poi di lei è appunto avvelenatrice, cioè, le peggio cose. Da, Matilde, seduttrice. Mia madre è ancora convinta che sia santa, cioè quando ho capito, ma non c'è Santa Matilde, ma in questo caso. Però comunque il collegamento tra Lucrezia e Matilde, ti aggiungo una curiosità, viene fatto dagli stessi estensi, perché in tardo 500, quando comunque comincia a fiorire l'araldica estense che cerca di ricostruire le origini della famiglia degli Este, appunto, nelle prime copie stampa, nelle prime versioni stampa, ci sono le effigie dei fondatori mitici della casa d'Este, e indovina chi sono? Sono Bonifacio e Matilde in persona, ma l'effigie di Matilde addirittura è presa direttamente da quella di Lucrezia, per cui la faccia di Lucrezia viene a sormontarsi con il viso di Matilde, che non conoscevano evidentemente, ma in questa maniera per dire che comunque a Ferrara lei lascia un ottimo ricordo, certo, tanto da essere definita la madre del popolo. Ecco, pensa già alla definizione che viene poi presa come dima e come immagine. Beh, allora facciamo uno stacco musicale a tema. Io ho portato un'altra grande donna con questo brano che, come appunto abbiamo specificato in precedenza, non è proprio così conosciuto. La conosciamo per altri successi, non per, a proposito di grandi casati, The Family. Lei è Nina Simone, a tra poco. Mama took to crying a lot, and Daddy took a while. And I took a train out of there. Took a train out of there. I told the engineer I don't believe there's no heaven. Heaven help the tie that binds the family. Heaven help the tie that binds the family. Flowers took to Daddy. And Daddy, he took to gum. Sister took to black real nice, and Mama cried alone. Brother, he took up preaching, and the bank man took the farm. Snake came and took my mom away, she can't do herself no harm. And I took a train out of there, I told the engineer, I don't believe there's no help. Heaven help the tie that binds the family. È un disco per CTI Record, 1972-73, uno dei suoi ultimi lavori, dal titolo Baltimore, semplicemente intitolato a una città, The Family, il brano che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Tra famiglia, l'importanza di una grande donna, l'importanza di dare una colonna sonora relativa al Breakfast Club, ma in intersezione con il lavoro di Diego Schiavo e Marco Melluso qua in diretta con noi. Quale lavoro? Diciamolo. L'incantevole Lucrezia Borgia, che sarà proiettato al Cinema Odeon martedì 10 e martedì 17 alle 19:30. È una prima? Sì, siamo praticamente Bologna è la prima, ha aperto, okay. Ha dato il via a tutte le proiezioni, a parte quella festivaliera del Ferrara Film Festival. Al quale siamo stati premiati, o meglio, è stata premiata la grande Lucrezia Lante della Rovere, che è la protagonista della. C'è anche un'omonimia. Ma adesso te la due. È vero, importante. Che lei, tra l'altro, con il certo. È vero che più siamo alti, più siamo tonti, mamma mia, ci arrivo dopo, è dalla Rovere. Ma sei in alto ci le mette notizie. Ci mette un po' ad arrivare il sangue. E allora, infatti, cioè, quando abbiamo pensato a chi far raccontare questa storia, ci siamo resi conto che non poteva essere un'altra persona. Cioè, abbiamo detto, vabbè, Lucrezia, chi la facciamo raccontare? È un nostro amico che poi è entrato, insomma, Alessandro in questo Russo. Lavoro, Alessandro Russo. Dice, vabbè, ma fatela raccontare a Lucrezia. E noi che appunto che ma non cogliamo anche insomma, voi un po' lenti e grazie grazie Lucrezia, ma qua a Lucrezia Lante della Rovere, e noi rimaniamo così folgorati sulla via di Damasco, perché un'attrice in Italia porta il nome proprio dedicato alla madre Marina Ripa di Meana, volle questo nome Lucrezia in onore di Lucrezia, sì. Borgia, ma il cognome di famiglia della Rovere è lo stesso, poiché eredi di quei della Rovere che posero fine alla famiglia Borgia. Sì. Per intenderci, Giulio II è quello della Cappella Sistina. Esattamente. Ecco, tutti se lo ricordano per quello. In realtà era un sanguinario ed era pure vendicativo. Quando era un guerriero, lui è stato un guerriero, insomma. La linea è sempre quella, ovviamente, ognuno poi ha storia a sé, ci mancherebbe. Ma anche in questo caso troviamo, non so, una Lucrezia che legge Vanity Fair. No, ricordo con Mattia che c'erano queste intersezioni che andavano tutti i tempi, come dico io. Qui no? C'è il papale papale, il papale che è il giornale dei gossip, che te la dice proprio, te la dice in faccia, te la dice in papale faccia. Papale e che titola scandalosi Borgia. Beh, certo, del resto era quello che correva. Altri artisti, scusate. Allora, per cui abbiamo come narratrice di questa storia una Lucrezia Lante della Rovere che si trova, cioè il film prende proprio parte da questa cosa, si trova incastrata nel solito documentario un po' gossiparo, un po' old style, un po' disinformato, fatto solo per fare un po' chiacchierare di sé, che è su Lucrezia Borgia, per cui parte proprio sulla velenatrice, la scandalosa, la lussuriosa, l'incestuosa, sì. I mariposa, tutto finisce in osa. E insomma, su sta povera Lucrezia, finché poveretta questa si ribella, dice basta sti documentari così, basta parlare delle donne così, prendo io in mano la situazione, lasciando sullo studio davanti a un microfono così che stava spicherando questo documentario, lasciando basito un povero Tullio Solenghi. Dai! Sì! Un po' chi troviamo. E allora Lucrezia e Tullio si mettono a confabulare. Si coalizzano perché capiscono di aver trovato, di poter riuscire a trovare una chiave di lettura di questa storia comune che piace a uno ma piace anche all'altra. E uno, voi lo sapete, Tullio Solenghi, il grande mattatore insieme alla Marchesini Lopez. E a Lopez della nostra televisione italiana, in realtà è stato anche un grande protagonista di una sorta di b-side delle telenovelas, sì, come le vogliamo chiamare, era uno sketch promessi sposi, anche dei promessi sposi, ma anche della telenovela, che dà poi il titolo credo alla sua biografia. Sì, cioè, bevi qualcosa Pedro, vuoi bere qualcosa Pedro? Sì, esatto. Poi hanno fatto i promessi sposi, sì, ne hanno fatte diverse, insomma. Quindi decidono di raccontare la storia di Lucrezia come la più grande telenovela del Rinascimento. Del resto, scusami, chi è la donna che è figlia del papa, che ha due matrimoni, il marito le ammazza, il fratello le ammazza i mariti, che ha un figlio segreto che poi il papa ne combina di tutti i colori perché è figlio mio, no è figlio tuo, no è figlio suo, insomma c'è tutta una storia di quelle alla Beautiful, fammi dire, da scoprire. E tutto quindi declinato con la nostra solita ironia, ma in realtà il messaggio è forte questa volta, perché sì, parliamo di donne al potere, parliamo di victim blaming e di slut shaming, cioè questo gogna mediatica, questa gogna mediatica sempre data alle donne, sempre data non tanto per il loro comportamento ma per il loro costume supposto, certo. Per cui cioè le si accusa sempre tramite illazioni per screditare poi quello che loro sono e quello che loro fanno. In realtà a Lucrezia succede un'altra cosa ancora più fastidiosa, cioè c'ha un padre potentissimo, sì, che è il papa, che gli vuoi dire, un fratello cattivissimo, assassino, sanguinario, pazzo, cioè che fa fuori chiunque gli si ponga contro, tanto da appunto ispirare Machiavelli, per cui insomma che gli dedica il principe, certo, per cui non proprio, cioè uno, una mammoletta. E contro chi ce la prendiamo? Ce la prendiamo un po' come facciamo tutti al semaforo quando uno ci taglia la strada, di solito finisci per chiamare in causa la madre, la sorella, eccetera, ed è sempre quello il punto, cioè si offende la donna di famiglia. In quel caso l'anello debole di quella famiglia era Lucrezia e non si vide l'ora di darle conto. Per cui cioè il l'ex marito, che venne salvato poi da un'azione di Lucrezia che gli disse: oh, stai attento, è bello, è meglio che te la dai a gambe, date sì, la gamba, esci da questo, non tira della bella, tira aria, della bruttissima aria, e quando in casa Borgia tira brutta aria, guarda qua, ci scappa il morticino, per cui prendi e vattene. Questo se ne va, si salva le vita, se ne rende conto e dice: vabbè, per ringraziare la mia ex moglie, perché mio suocero mi ha costretto a riparare, a dichiararmi impotente, altro che a rendere nullo il matrimonio, per dichiarare la mia ex moglie, insulto il padre. E come insulto il padre, dico che è un po' disinibito, di facili costumi. Non si sa come, non si sa bene, non si sa perché, si rovescia tutta sta cosa, e dal satiro del padre che ci proverebbe persino con la figlia, questa era diciamo l'offesa più grave, certo, esatto, è diventata: la figlia ci sta con tutti persino col padre. Ecco, pensa un po' come hanno rigirato la cosa. Ma è sì, terribile. Ma già lì allora succede questa cosa, questa inversione di termini. E la cosa drammatica è che Lucrezia si porta dietro questa fama oscura veramente fino ai giorni nostri. Noi riflettevamo sul fatto che anche grazie probabilmente veramente alla cultura pop, che stavolta noi chiamiamo in causa ma anche un po' accusiamo, Lucrezia è stata sempre additata come quella oscura, quella, la donna vamp. Perché poi la donna vamp nell'Ottocento, quando è stato creato il mito della donna vamp, sì, nasce proprio con Lucrezia Borgia, che è la cosa incredibile, perché in Francia Dumas padre scrisse Le Borgia, appunto, che era un romanzo, ma che accusava anche in maniera molto fantasiosa di ogni crimine e nefandezza la famiglia Borgia, e da lì se ne trasse un'opera lirica. Quindi Lucrezia, che ebbe un grandissimo successo, la Lucrèce Borgia in Francia, e poi venne portata in Italia, rimane e rimase per tanto tempo, ma ancora oggi al di là degli studiosi e della città di Ferrara, che ancora l'adora, la ama e la conosce bene, è comunque vista come una donna malvagia. E noi abbiamo voluto ribaltare questa posizione, certo, ridarle la sua vera identità storica, anche facendolo con il sorriso, ma ridarle la sua identità storica e soprattutto far conoscere a tutti quella che è una donna meravigliosa. Attenzione, dice Lucrezia Lante nel film, che quando le bugie ti si appiccicano addosso poi è dura mandarla via. Durissima, sì, questo infatti è un contenuto che sottolineiamo. Io vi ringrazio tantissimo, ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, Cinema Odeon martedì 10:10, non potete sbagliare, alle ore 19:30, e poi il martedì successivo il 17 sempre alle 19:30 per una grande storia d'amore, A Grand Love Theme. Stiamo ascoltando, è già partito il brano di Kid Loco, la coppia Schiavo Melluso con queste iniziative iniziative portano approfondimenti culturali, sociali, guardando il passato, trasformandolo in tutti i tempi, in momenti emotivi divertenti, con grande maestria sanno riscrivere oppure riportare alla luce percorsi che molte volte vengono, per così dire, sottovalutati. Per cui io vi ringrazio tantissimo per aver dato al Breakfast Club la possibilità di essere amplificatore dei vostri lavori. Ribadiremo l'appuntamento chiaramente e noi sarò a Bologna, quindi ci vediamo al cinema. Che bello, finalmente l'uomo più alto del mondo riusciamo a portarlo al cinema. Noi non ci vedranno, però vedranno William. Mettete dove c'è lo spazio per le gambe. Io cerco, è importante. Io vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo al cinema, grazie. Ci vediamo al cinema. Grazie, ciao Diego, ciao Marco. Ciao. Very keen sense of how very, very short life is.